Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, situazione praticamente, non dico simile, però insomma, siamo molto vicini a quella di ieri. Non dico simile perché le borse perdono un punto e mezzo in meno rispetto a ieri, per cui Parigi perde il 2%, Francoforte l'1,40%, Londra l'1,34%, gli Stati Uniti sul Dow Jones lo 0,36%. Milano, ahimè, come anche ieri, perde un punto e mezzo in meno, ma resta quella che perde di più, il 3,20%. In questo momento l'indice, questo è un problema di soglie tecniche soprattutto, è sceso sotto quota 16.000 punti, a 15.916 punti. C'è anche chi guadagna oggi, a differenza di ieri, mi riferisco in primo luogo a Telecom Italia, che guadagna il 4,40%, Campari il 2% e ancora per quello che riguarda Luxottica l'1,16%, Enel più 0,60 come Enel Green Power, anzi Enel Green Power più 0,70, Mediaset più 0,40%. E poi c'è invece il tema delle banche e delle banche tedesche, ce ne occuperemo, nel senso che oggi dimezza le perdite ma continua a perdere Deutsche Bank un altro 5%, nonostante le rassicurazioni arrivate dal gruppo sulle risorse disponibili e a disposizione per pagare le cedole dei Coco Bonds cosiddetti e sulla solidità dell'istituto, i CDS, ossia Credit Default Swaps, i premi che si pagano per assicurarsi sul rischio, in questo caso Deutsche Bank, sono continuati a salire e hanno toccato i 250 punti. L'abbiamo spiegato come lo spiegavamo nel 2008-2009, anche in questi giorni. Immaginate il premio che un automobilista paga per la sua polizza assicurativa: più è a rischio, più è alto questo premio. I CDS sono un po' il premio, l'equivalente di questo premio, se vogliamo spiegarli in maniera semplice, e più aumenta questo premio, più vuol dire che il soggetto è a rischio. Due settimane fa i Credit Default Swaps, i CDS di Deutsche Bank erano a 90 punti, adesso sono a 250 punti, che vuol dire che è quasi triplicato il rischio attribuito a Deutsche Bank. Gli spread, e nel caso specifico anche quello italiano, sono tornati ai livelli del luglio-giugno 2015, quindi in piena tensione greca, 147, 150 punti. Per quello che riguarda i BTP a 10 anni greci, sono tornati a livello più alto dall'agosto scorso, il 10,5%. Questa mattina ci sono messe, ma era presumibile, anche le borse asiatiche. Tokyo ha perso il 5,40%, dimostrazione che lo scenario, il pessimismo degli investitori, poi riguarda anche il nostro paese, ci mancherebbe, i titoli bancari, ma è generalizzato, nel senso che Tokyo ha perso il 5,40% e l'euro si è rafforzato, anche lo yen si è rafforzato, l'euro si è rafforzato a quota 1,12, adesso è 1,13 nei confronti del dollaro. Ma chi me lo richiede, il nostro BTP ha toccato anche i 150 punti, quello spagnolo a 161 punti, quindi perlomeno rispetto al 2011 si continua a vedere, avere uno spread più basso, seppur di 10 punti, in Italia rispetto alla Spagna. Oggi, ecco, pochi minuti fa, sto leggendo l'agenzia assieme a voi, il Monte dei Paschi ha aggiornato il minimo storico in borsa, praticamente vale 1.400.000.000, sono scesi a 48 centesimi di euro le azioni. Non è il peggior titolo Monte dei Paschi, perché UbiBanca perde l'8,80, Pop Milano l'8,30, il Banco Popolare l'8%, Unicredit il 7,11%, E qui faremo anche un ragionamento su UniCredit, visto che oggi ci sono anche i numeri, scusate la terribile qualità della voce, ci sono anche i numeri per UniCredit, ma va male anche Ferrari 5,91%, Tenaris 5,80%, Tozzi il 5,80% di calo, come per Mediobanca e Intesa San Paolo. Il 5,5% lo perde Banca Mediolanum e Saipem, il 4,30% Exor, il 4,20% Anima Holding, il 4% del caro di CNH Industrial e di Generali. Unipol meno 3,80%, Eni pure, il 3,35% lo perde Azimut e Finmeccanica. Monte dei Paschi appunto meno 3% a 50 centesimi di euro, è arrivato fino a 48 centesimi di euro. E infine chiuderei con A2A meno 2,5%, Fiat Chrysler meno 2,30%, Prismian meno 2,20%, Yux meno 2%. Parleremo però anche del nostro export in Russia, perché oggi è entrato nel vivo il principale appuntamento per la principale fiera agroalimentare in Russia. Noi eravamo il partner privilegiato nel settore agroalimentare, come spesso abbiamo spiegato. La Russia era un grandissimo mercato per noi, anche perché comprava i prodotti di alta qualità, di alta fascia, per cui avere l'embargo e le controsanzioni russe ha danneggiato anche in primo luogo l'Italia nel suo export. Ripeto, oggi si apre il più importante avvenimento per quello che riguarda il settore agroalimentare. C'è il ministro Martina, c'è la delegazione ICE e comunque la delegazione italiana. Avremo un collegamento con la nostra Laura Bettini, anche perché in questi anni, ahimè, la presenza delle aziende italiane si è molto ridotta anche in questa fiera e anche in questo appuntamento, e non è un mistero che per esempio l'industria alimentare turca abbia occupato le posizioni perse dall'Italia per via dell'embargo, con il doppio rischio, da un lato che ci perdi come fatturato adesso e poi che nel futuro vi possa essere a questo punto una sostituzione vera e propria, una volta che tu ti abitui ad avere come fornitore un'industria agroalimentare turca, cito il caso della Turchia, poi non torni più indietro su quella italiana. Ma parleremo anche delle trivelle, perché è arrivato lo stop, o meglio la società Petroceltica ha rinunciato al permesso di ricerca di idrocarburi al largo delle isole Tremiti, quello ottenuto 9 anni fa. Questo è dovuto al referendum? No, diciamocela tutta, è dovuto al fatto che il prezzo del petrolio è a $30 al barile, e quindi, come dice anche la società, il cambiamento delle condizioni del mercato mondiale hanno spinto la società a questa decisione. Sappiamo tutti che la concessione del permesso aveva suscitato forti polemiche in Italia, c'è la proposta di un referendum sul tema, 9 i consigli regionali che l'hanno proposto, Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise. La Corte Costituzionale lo scorso 19 gennaio dichiarò però ammissibile solo il quesito riguardante la durata delle concessioni già autorizzate. E comunque Petroceltic si ritira, ne parleremo, e il ministro Guidi dice accogliamo con rispetto la rinuncia di Petroceltic, stop adesso alle strumentalizzazioni. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, 349-238-6666 e anche il numero per WhatsApp. Rapidamente le altre notizie, in breve. Allora, volete sapere se hanno parlato i ministri tedeschi, Schäuble e se Weidmann, allora, Weidmann ieri in maniera intempestiva, adesso poi ha corretto il tiro, Weidmann è il presidente della Bundesbank, ha detto ci vorrebbe un ministro finanziario unico dell'Unione Europea, così buttando questo sasso nello stagno, la battuta è stata ovvia, magari tedesco, nel momento in cui crollavano le due principali banche tedesche, forse dal presidente della Bundesbank ci si aspettava anche una parola su quello che stava capitando sui mercati e i dubbi soprattutto su Deutsche Bank e Commerzbank, visto che le vigila la BCE, ma diciamo, lui fa il presidente della banca centrale tedesca, no, si deve occupare del ministro unico europeo. Ripeto, il tema è sempre il solito, ne parleremo. Se tu sei il paese più potente e vuoi esercitare la leadership, ok, ma tu non puoi, diciamo, essere il paese più potente, volere, diciamo, avere sempre l'ultima parola senza assumerti le responsabilità della leadership. Allora, oneri e onori, non solo onori senza oneri. Oggi ha parlato invece Schäuble, il quale, tra l'altro, dopo una bilaterale a Parigi, qualcuno ricorderà che è circolata la voce in questi giorni, mentre il mercato era sotto tempesta, che il ministro delle finanze, potentissimo ministro delle finanze tedesco, Schäuble, avesse proposto a questo punto anche un nuovo modo di gestire i titoli di Stato o gli investimenti fatti in titoli di Stato, ossia un'ipotesi che questi investimenti iniziassero a erodere il capitale delle banche non appena la loro esposizione in debito pubblico del paese superasse il 25% del patrimonio. Sostanzialmente, se questa proposta assurda, visto il momento, passasse, un paese come l'Italia, dove le banche hanno circa 400 miliardi di euro di titoli del tesoro in pancia, dovrebbero accantonare contro eventuali perdite circa 70% del loro portafoglio. In alternativa dovrebbero vendere titoli di Stato italiani e magari comprare titoli di Stato un po' più solidi, per esempio quelli tedeschi. Ora, voglio dire, va bene tutto, ma non ci fate fessi. No, mi sembra che, e oggi Schäuble è uscito dall'incontro con la bilaterale a Parigi con delle rassicurazioni un po' sbrigative. Ma come, Schäuble, hai parlato nel dettaglio sui greci, sull'Italia, su tutto, e quando tocca a Deutsche Bank, poi lo chiederemo a Tobias Piller, non vi preoccupate, te la sbrighi con una risposta: no, non ho preoccupazioni, fine. Insomma, almeno una frase più articolata: le due banche sono solide, non è vero che Deutsche Bank ha tutti questi titoli tossici ancora a bilancio, come se potesse collocare sul mercato a prezzo pieno e senza averli svalutati. Cioè, tutte le cose di cui si stanno occupando non noi, ma gli investitori internazionali. Comunque, evidentemente, poi ha aggiunto: la crescita è tornata, ma non è ancora sufficiente per sedersi sugli allori. A me sembra una dichiarazione marziana. Comunque, la Germania oggi festeggia un nuovo record per l'export nel 2015, più 6,4%, anche se dicembre ha fatto meno 1,6%. Poi getta acqua sul fuoco invece il governatore della Banque de France, François Villeroy de Gallo, che ha detto: la volatilità dei mercati è un segno di incertezza, ma bisogna saperla sorvolare. L'Europa, l'economia reale in Europa sta dando segnali positivi. E poi varie fonti europee ci hanno tenuto a precisare che l'andamento della borsa di Atene è collegato a quello delle altre borse, ma diciamo che non c'è una specificità né sulla Grecia né sull'Italia, che ha molte ragioni questa volatilità. Ancora, nel frattempo, la banca d'affari Goldman Sachs, in una nota ai clienti, ha scritto che i rischi sistemici per i mercati sono in aumento, come messo in evidenza dall'ampliamento degli spread, e i rischi del mercato del credito, questo secondo vari analisti della Bank of America, sono in aumento anche a livello sistemico. La tendenza è cambiata, come dimostrano le recenti vendite e le debolezze sui mercati emergenti. Per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, emerge da varie fonti finanziarie che anche la Banca Centrale Europea si sta occupando del caso greco. Non convince l'aumento di capitale di Attica Bank. La vigilanza della BCE vorrebbe chiarimenti anche su banche minori. Dicevamo dei conti italiani. Unicredit oggi ha presentato i conti del 2015, 1,7 miliardi l'utile, la cedola resta invariata. Il risultato è, dice il numero uno Ghizzoni, è un risultato di grande valore considerato il contesto, e ed è possibile che la prossima cedola agli azionisti verrà data cash, che dal 2016 l'Unicredit potrebbe tornare a pagare la cedola cash grazie alla buona generazione di capitale.

non siamo ancora arrivati a questo, cioè, non c'è nessuna corrispondenza tra il tono di voce e l'andamento dei mercati, anche perché di questi giorni, cavolo, faccio prima di mettermi in malattia. Allora ancora due notizie. 7 anni e 3 mesi di carcere, 2 milioni di multa chieste dalla pubblica accusa per Salvatore Ligresti, la figlia e sua figlia Ionella, al processo Fonsai che oggi è ripreso a Torino. Tra l'altro il PM Marco Giannoglio ha anche chiesto 6 anni e 8 mesi per Fausto Marchionni, ex amministratore delegato della compagnia, 6 anni e 2 mesi per Antonio Talarico, vicepresidente, 3 anni e 6 mesi per Ambrogio Virgilio e Riccardo Ottaviano, revisore attuatario. Il fatto è di una gravità eccezionale, l'abbiamo raccontato in tutti i modi, oggi non avrei nemmeno la voce per arrabbiarmi. Invece la Confcommercio oggi fa sapere che nel mese di dicembre l'indice, che loro ha un nome molto brutto, si chiama Misery Index, è l'indice di disagio sociale, è ahimè leggermente aumentato da 19 a 19,2 punti, e la ripresa dell'economia stenta ad assumere ritmi di sviluppo sostenibile, e dopo un calo di questo indice nei mesi estivi, una stabilizzazione in quelli autunnali e un leggero peggioramento in quelli invernali. Io poi non so come facciano alcuni a dire che noi diamo buone notizie, raccontiamo un'Italia che va solo bene. Quale buone notizie sull'economia le dobbiamo cercare col lumicino? Boh. A Mosca, dove c'è la nostra Laura Bettini, oggi, dicevo, ha aperto i battenti, Natale lo ha fatto ieri, ma oggi è entrato nel vivo la 23esima edizione di Prodexpo. Cos'è? Beh, è il principale evento del mercato russo del settore agroalimentare. Sono 2000 espositori, 65 paesi, ci sono anche i produttori di tecnologie per il settore agroalimentare, non solo i produttori di prodotti agroalimentari. Il ministro Maurizio Martina delle politiche agricole arriverà a Mosca stasera e fino a giovedì pomeriggio, e domani incontrerà gli espositori italiani e poi il vice premier Dvorak, e poi andrà vicino a Mosca dove visiterà lo stabilimento della Cremonini. Ci sarà anche il presidente di Federalimentare Scordamaglia, rappresentanti dell'ICE, insomma, tutto per cercare di capire come far tenere un settore che a causa dell'embargo russo complessivamente ha perso 5 miliardi e 200 milioni a livello europeo. Noi da soli nel 2015 abbiamo rinunciato a 244 milioni di euro di vendite. Noi avevamo fatto tra il 2009 e il 2013 come export verso la Russia più 120%. È chiaro che l'ultimo anno prima dell'embargo, per dire, esportavamo 500 milioni di euro, adesso siamo scesi a 240 milioni, e eravamo praticamente all'ottavo posto mondiale come esportatore agroalimentare verso la Russia. Le categorie più colpite: frutta 60 milioni di euro in meno quest'anno, carni 45 milioni in meno, formaggi e latticini 41 milioni in meno. Ma pensate che gli ortaggi hanno fatto verso la Russia il meno 98%, la frutta meno 94%, cioè praticamente il nulla, formaggi e latticini meno 93%, non esportiamo praticamente più una mozzarella, ecco perché dico che poi le comprano in Turchia, carni e frattaglie meno 88%. Laura Bettini, Govorite Poruski, buonasera. buonasera. A tutti gli ascoltatori, anche a te Sebastiano, ho pensato invece che il problema della tua voce fosse un cattivo collegamento, invece poi ho scoperto che purtroppo è malattia. Però ti do una buona notizia in questa strage, in malessere, in questa strage correttissima che hai fatto. Siamo ancora primi per il vino, e questo segna che i francesi hanno dovuto cedere. Certo, il vino non è tra quelli che hanno le sanzioni, quindi si continua a commerciare. Io tutti quelli che ho conosciuto oggi, quasi tutti, eccetto uno che... No, fai bene a ricordarlo, che è escluso dalle sanzioni il vino, certo. Il vino è escluso, infatti sono tutti produttori di vino quelli che ho incontrato oggi, chi in consorzi, chi insieme, chi come Regione Emilia Romagna, chi con aziende locali con cui ha partnership da molto tempo, ma sono quasi vini a distillati. Eccetto appunto un'azienda che si occupa di sott'olio e sottaceti, che ho scoperto essere esclusi. Non si sa perché i carciofini sott'olio si possono portare. Beh, il tema dei sottaceti in questo periodo mi sembra anche un tema, diciamo, di carattere finanziario, soprattutto per quello che riguarda i cetrioli. Allora, andiamo avanti col resto invece. perché andiamo avanti con questo, sì. Perché al di là del vino, insomma, i dati che ho appena letto stanno a significare che siamo scomparsi nelle carni, nei formaggi, nei latticini dal mercato russo. Quanto fai? Meno 93, meno 94%. Vorrei capire chi ha sostituito i prodotti italiani e qual è la preoccupazione di fondo, anche perché tu hai raggiunto, oggi hai intervistato lì a Mosca rappresentanti dell'ICE, alcuni imprenditori. Tutto questo però dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, Laura Bettini, dicevo, tu hai intervistato sia chi rappresenta l'ICE, sia vari imprenditori, mi scrivono gli ascoltatori, guardi che la frutta gira l'embargo verso la Russia perché viene esportata in Serbia e da lì inviata in Russia, e questo... Non tutta. Sebastiano, ecco, qualcosa... comunque vai, prego. No, si dice anche i latticini vanno in Bielorussia e poi dopo vanno là, non è così semplice, insomma, a girare. Sicuramente qualcosa succede. E chi ci ha sostituito? In prima battuta è stata la Turchia, ma poi se la sono giocata da soli dopo l'abbattimento delle jet russe, è stata esclusa. In altra parte, paesi vicini, Uzbekistan, Armenia, pensiamo a tutti questi, in gran parte però è produzione interna, cioè si sta cercando di lavorare sulla produzione interna, nelle zone caucasiche ad esempio del vino, ed è qui che tu menzionavi l'ICE, Pierpaolo Celeste, che è il direttore dell'ICE qui a Mosca, ci ha detto che le aziende italiane possono entrare e lavorare. Sentiamo. La strategia dell'agenzia ICE è duplice. Uno, rimanere nell'ambito della percentuale di prodotti importati permessa, e due, vedere se il modello di business che applicano i russi in questo momento è un modello di business che può interessare ad alcune delle imprese medie italiane che possono venire in questo momento a investire qui. Perché venire a investire qui? C'è la grande attrazione di un cambio rublo euro che permette un investimento a più del 50% di meno di quello che poteva essere un anno e mezzo fa, e questa è la prima motivazione. La seconda può essere l'energia, forse, che ha un prezzo competitivo anche, no? Sì, molto competitivo. Terzo, la corsa delle regioni e alcune delle più di 85 entità amministrative sono particolarmente agguerrite all'attrazione di investimenti esteri. Per attrarre gli investimenti esteri ci sono priorità di progetti regionali, ci sono la creazione di zone economiche speciali, di parchi tecnologici, studiano pacchetti di esenzioni fiscale, in alcuni casi ci sono anche dei finanziamenti proprio governativi per sviluppare determinati progetti. Noi stiamo selezionando questi progetti, cercando di vedere lì dove aziende italiane possano avere una fruttuosa collaborazione con il. Non più made in Italy, ma made with Italy. In ogni caso, gli imprenditori italiani resteranno, ecco cosa ci hanno detto. Io sono venuto qui la prima volta 15 anni fa, quindi tantissimi anni, e diciamo che io credo che dobbiamo dare continuità ai mercati in generale, anche qui in Russia, nonostante le difficoltà che ci sono. Allora, in realtà noi abbiamo perso sì questi fatturati per le restrizioni che ci sono state, però le maggiori perdite si sono avute per colpa della forte svalutazione che ha avuto il rublo e quindi per il crollo del prezzo del petrolio, che sono strettamente correlati. Certo, quindi tutto nell'ultimo anno principalmente? Assolutamente sì. In questo momento il mercato russo è in fortissima crisi, con calo dei volumi disastroso e calo significativo del valore medio della bottiglia importata, legato principalmente alla caduta del potere d'acquisto dei clienti finali. Allora Laura, un'ultima nota, domani dicevo ci sarà anche la delegazione più ufficiale, il ministro Martina e i vari incontri? Sì, domani è atteso il ministro Martina, diciamo che è atteso davvero a gloria da questi imprenditori italiani che si sentono, diciamo così, più supportati dalle istituzioni, sperano che da questa visita possa nascere una nuova collaborazione, magari con gli strumenti che diceva Alice, appunto entrando in partnership con imprese locali, facendo impresa qui e quindi superando queste barriere che attualmente rendono le cose difficili. Però, ripeto, tutti molto motivati a restare, ad aspettare la fine della crisi e ricominciare. Allora, è chiaro che, come ricordava un imprenditore di quelli che tu hai intervistato a Mosca, c'è il tema del rublo e del crollo del potere d'acquisto dovuto al dollaro. Certo che c'è anche questo, l'embargo, diciamo, si somma a questo. Laura Bettini da Mosca, buonasera, spasiba e a domani. Yeah. Adesso abbiamo respirato un attimo, torniamo in apnea perché iniziamo una lunga pagina fino alle 18.30 su quello che è successo alle borse. Allora partiamo con ordine, anche perché dalla cronaca, nonostante un tentativo di chiudere sopra i 16.000 punti, alla fine l'indice FTSE MIB ha chiuso sotto 15.900 punti, meno 3,21%, Parigi meno 1,70%, Francoforte meno 1,1%, Londra meno 0,88%, quindi una giornata che per altre borse è stata debole ma non drammatica, noi ci siamo beccati un altro 3%, un po' di più, 3,20% di calo. Dove? Su UbiBanca meno 8,90, sul Banco Popolare meno 8,60, sulla Pop Milano meno 8,40, su UniCredit meno 7,90 e su Intesa San Paolo meno 6,20%. Poi tra i non bancari Ferrari meno 5,90, Tenaris meno 5,70, Mediobanca invece meno 5,60 come Saipem, Tods meno 5,40, Cennac Industria meno 4,70, Banca Mediolanum meno 4,60, Exor meno 4,30%, Generali meno 4 e come Eni. Chiudo con chi ha perso più del 3%, Unipol meno 3,90, Anima Holding meno 3,60 come le Poste Italiane, Unipol Sai meno 3,20 come Finmeccanica. Il 3% lo perde il Monte dei Paschi di Siena, che era arrivato anche ai minimi storici di capitalizzazione a 48 centesimi, ha chiuso un po' meglio a 50 centesimi di euro per azione, però insomma è arrivato a 1,5 miliardi di valore. Bene invece Telecom Italia più 3,60, Campari più 1,50, Mediaset più 1,30, Luxottica più 1, e qui abbiamo finito con la parte dei titoli positivi. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Noi siamo tornati ai livelli come borsa dell'agosto 2013, come spread dell'estate dell'anno scorso. Lo dico per non far qualcuno fa confusione quando scrive. Commentiamo i titoli positivi, visto che poi sarà tutto, diciamo, un'analisi dei titoli negativi dopo il traffico. Focus Economia. Allora, no, accetto la critica di un ascoltatore che dice: voi non volete usare inglesismi, e ieri ricordavamo anche l'Accademia della Crusca che ha detto in finanza basta con gli inglesismi, in economia il bail-in si traduce salvataggio interno e bail-out salvataggio dall'esterno, e poi lei si mette a parlare russo, vabbè, accetto la critica. Andrea Fontana, possiamo commentare almeno i titoli che sono cresciuti oggi? Telecom Italia, Campari e Mediaset, e anche Luxottica. Sì, sicuramente si è trattato in gran parte di rimbalzi su soglie tecniche per quanto riguarda Telecom, però c'è l'attesa del piano industriale che la prossima settimana sarà presentato a Londra, e si aspettano anche indicazioni, ricordiamo, sulla vendita delle torri di trasmissione su Inwit. Peraltro oggi qualche operatore si è detto fiducioso, nello specifico Morgan Stanley, sia sull'andamento del debito di Telecom sia sul recupero del margine operativo lordo. Per Campari e Mediaset stiamo guardando soprattutto a soglie tecniche, Campari 7 euro e Mediaset 3 euro da recuperare dopo le forti perdite innescate dai conti dei 9 mesi all'inizio di dicembre. Invece per Luxottica c'è stato un recupero in zona 50 euro, perché qualche operatore vede come positivo l'impulso che potrà dare Leonardo Del Vecchio, tornato al comando operativo dell'azienda. Ricordiamo che Luxottica, dall'uscita di Adil Khan alla guida dell'area mercati esteri, aveva infilato 6 sedute consecutive, sì, di flessione, perdendo quasi il 17%. Allora Andrea, io ti ringrazio, perché adesso invece dovrò commentare tutto il resto, e cioè di nuovo una borsa che perde, e questa volta anche forse più di ieri, 1,5 punti, comunque più di Parigi che ha perso 1,70, Francoforte meno 1,1. Vorrei partire da una cosa che si chiama analisi tecnica. Ce ne occupavamo ai tempi di Salvadanaio, le soglie, le resistenze. La dico in maniera brutta, così potrete criticarmi. La soglia o la resistenza sono dei livelli verso l'alto o verso il basso, superati i quali chi fa l'analista tecnico dice: va bene, se tu superi un livello di 1000 punti, rompi quel livello e scendi a 999, il prossimo livello di resistenza lo individuiamo a 800 punti, rotto il quale... E non è un dettaglio, perché molti dei, anche qui la dico volutamente male, dei computer con cui si fanno operazioni di borsa lavorano anche in questo modo, cioè hanno un ordine di vendita: se tu superi, scendi a un certo livello o sali a un certo livello, dipende da quello che è l'intenzione. Dottor Longo, analyst finanziario per IG Markets, dottor Vincenzo Longo, buonasera. Buonasera a tutti. L'ho spiegata male? No, qualche parolina andrebbe un po' ricalibrata, ma dai, me la dica, me la dica. Resistenze sono i punti più bassi rispetto, certo, ai prezzi di mercato su cui il mercato si appoggia, certo. Scusi, supporto è questo qui, la resistenza è un punto più alto rispetto al prezzo di mercato. Ha ragione, come se uno, in questo caso un mercato che sta calando, trovasse adesso con un'immagine di un edificio dei piani in cui, a cui aggrapparsi, più ne rompe, cioè il prossimo piano, mettiamola così, come se ci fossero diversi livelli. Vale anche, non lo volevo citare, verso l'alto. Non mi sembra però questo il periodo, cioè vale anche quando tu rompi un livello verso l'alto. Detto questo, 16.000 punti per l'indice FTSE MIB, visto che oggi l'abbiamo rotta, era un livello di questi, diciamo, un piano rotto il quale scendevi al piano sotto? Ma dunque, l'impostazione grafica, diciamo, vedeva un supporto più interessante collocato intorno ai 17.700 punti. Mm. Ora, siamo già molto distanti, però in realtà è un livello che il mercato ha rotto ieri, quindi ecco, forse ieri abbiamo avuto il segnale più eclatante da questo punto di vista. Rotto questo livello a 17.700 punti, oggi c'è stata, e anche ieri e oggi c'è stata l'inevitabile accelerazione verso il basso. Oggi abbiamo chiuso addirittura sotto i 16.000 punti, che è un livello, diciamo, le cifre tonde vengono definite livelli psicologici, certo, e il mercato è pronto ancora ad allungare verso il basso, quindi il mercato ancora non ha raggiunto quello che è il supporto successivo. Il supporto successivo si colloca a 14.900 punti, ovvero sui minimi su cui ha rimbalzato più volte a cavallo tra il 2012 e il 2013, salvo poi sganciarsi definitivamente all'inizio 2014 e accelerare verso 24.000 punti. Anche perché noi siamo tornati come livello a livello dell'indice, parlo, dell'agosto 2013. Quindi le dice, se dovesse rompere, da un punto di vista chi fa analisi tecnica, il supporto di 14.900 punti, cioè 1000 punti in meno, quello è un supporto importante, perché anche nel periodo molto delicato, turbolento, 2012-2013, non, diciamo, aveva sempre rimbalzato da quel livello, non era mai caduto al piano sotto. Posso spiegarla così? Sì, diciamo che c'è stata una fase di uscita, che è quella della crisi dell'estate del 2012, quando Draghi poi pronunciò il whatever it takes, certo, e lì il mercato era tornato a salire, poi si era messo su una fase laterale, come si dice di consueto, tra questi 14.800 e i 16.000 e 18.000 punti. Ora, quindi, sostanzialmente, per farla breve, il supporto più interessante passa a 14.800, 14.900, quindi è probabile che il mercato possa arrivare a quel livello prima di tentare un rimbalzo. Come ha detto giustamente lei, però, è necessario che quell'area dei 14,9 venga tenuta onde evitare un peggioramento sensibile del quadro grafico, riportando in essere di nuovo i timori che abbiamo vissuto tra il 2011 e il 2012. Senta, ma lei nel salutarla e ringraziarla, perché era importante capire, lei ha capito che cosa è successo? Ma noi abbiamo una view... Che oggi diciamo... anche Tokyo ha perso il 5-40%, le banche vanno male anche in Germania, anzi... esatto, no, la view non so cosa sia. La visione, mi scusi. Quello che crediamo noi in questo momento è che il mercato stia andando a caccia della prossima Lehman Brothers e la voce più importante che circola sul mercato... sembra essere quella di Deutsche Bank, su cui molti operatori sono tornati negli ultimi giorni, su cui all'interno delle sale operative si stanno focalizzando gli analisti nel cercare allora, di dare facciamo una cosa Longo, resti con noi, io devo chiedere un po' di pazienza, perché siccome dopo Tobias Spiller, Lorenzo Codogno, Alessandro Fraterotti, quest'ultimo aspetto me lo deve dire lei, perché sennò sembra che io faccia sempre l'antitedesco per definizione, ma quando mai. GR24. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Longo, visto che ci ha raggiunto anche in collegamento, lo ringrazio come sempre, Tobias Spiller, mi riferisco quindi al corrispondente in Italia della Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ciao Tobias. Buonasera. Può ripetere quello che ha detto prima del GR24, e cioè i ragionamenti che si fanno sul mercato, perché c'è chi ci scrive, ci sono ipotesi che grossi fondi stiano uscendo, lei diceva, ma voglio che lo dica lei, non sembra che la spinga io, c'è il rischio o c'è chi scommette che vi sarà una nuova Lehman? Sì, esattamente, questo è il rischio che il mercato su cui il mercato sta andando a scommettere in questo momento, è stato ben evidente nell'ultima settimana. Sarebbe questa nuova Lehman? Perché dobbiamo dirla tutta però la frase. Ma diciamo che su Deutsche Bank si stanno concentrando i timori principali del mercato. Ieri meno 10, oggi meno 4,5, il titolo è sotto pressione, sono intervenuti tutto il top management, dal CFO al CEO, hanno ribadito come la banca sia solida, ma queste dichiarazioni lo dicevano anche i capi di Lehman Brothers a 2 mesi dal fallimento. Prego. E un'altra considerazione, oggi è intervenuto anche Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, in materia, quindi questo sottolinea quanto sia forte in questo momento il timore sul mercato. Nelle sale operative è un nome che circola, è un nome su cui il mercato rimane pesantemente concentrato, anche perché è reduce da una maxi perdita nel 2015 e l'outlook, lo scenario è molto molto negativo in generale per il settore bancario, molto per Deutsche Bank, che deve fare i conti con tassi bassi per un periodo molto lungo di tempo. Allora Tobias Spiller, la domanda che ho per te è questa: visto che oggi, nonostante le rassicurazioni della banca, i CDS, quindi Credit Default Swaps, Deutsche Bank sono saliti ancora 250 punti, quindi il premio che si paga sul rischio Deutsche Bank continua a salire, era 90 punti due settimane fa, 250 adesso. La domanda è semplice, e sappiamo che c'è chi dice, così come le banche italiane hanno un problema delle sofferenze, cioè di crediti che non ritorneranno indietro perché l'economia nel frattempo ha perso il 20% del suo prodotto, della sua produzione industriale, Deutsche Bank, e non solo, ma soprattutto lei, ha il problema dei titoli derivati o tossici, che di cui è piena, non li ha mai svalutati, un po' l'accusa che si fa ad alcune banche italiane sulle sofferenze, cioè non li ha mai messi a bilancio per quello che varrebbero adesso, continua a mettere a bilancio come se potesse venderli a prezzo pieno, e così non è, perché in alcuni casi hanno difficoltà a fare prezzo. Domanda: ma tu come tedesco, come giornalista, non ti saresti aspettato un intervento un po' più solido da parte di Schäuble, che oggi ha detto semplicemente non ho preoccupazioni, non ha aggiunto altro, e di Weidmann, che ieri in maniera, a mio avviso, estemporanea, quasi come un Forrest Gump, mentre precipitava Deutsche Bank, Commerzbank, le banche di tutta l'area euro, se ne è uscito con l'ipotesi del ministro unico delle finanze, che è una cosa di cui possiamo ragionare, ma non mi sembra ora il caso. Cioè, non ci dovrebbe essere una presa di posizione più forte anche della politica tedesca, che spesso è intervenuta sugli altri paesi, lo sai, la mia polemica la conosci molto bene, sulla Grecia, sull'Italia, sulla Spagna. Ora, non c'è un eccesso di silenzio quando tocca a una banca tedesca? Guardi, Deutsche Bank è sottoposto alla supervisione bancaria europea. Certo, Draghi. Se la supervisione bancaria europea ha qualcosa da controllare, qualcosa da chiedere come ulteriore ammortamento, accantonamento e così via, facciano pure, no? Poi in quel senso la politica in Germania non si è mai messo lì a fare il tifo contro o per una banca. E la mia stessa opinione anche in piena crisi bancaria era non dobbiamo salvare così i premi del vertice della banca, ma dall'altro lato bisogna anche dire la banca al momento sembra debole dopo questa maxi perdita, ma questa maxi perdita erano proprio delle svalutazioni fatto da un nuovo vertice che ha cercato certamente di fare pulizia per ricominciare da un foglio bianco. In quel senso non sembra da fuori una situazione dove si comincia adesso a rincorrere delle perdite e sofferenze. Altro punto è certamente la storia della Deutsche Bank in generale, è una storia molto deludente per la Germania, perché avevamo sempre pensato una Germania che esporta molto, sarebbe anche un campo ideale per una banca forte internazionale che potesse seguire questo mondo economico. Ma invece quello che negli ultimi anni hanno cercato i banchieri della Deutsche Bank è rincorrere il mercato dell'investment banking, e hanno fatto tanti affari che non erano così grandiosi, in parte pure illegali. Dopodiché mettiamo anche questo, voi vi lamentate tante volte del surplus tedesco. No, facciamo notare, Tobias, facciamo notare che il trattato di Maastricht prevede che tu non possa avere un deficit alto e un surplus troppo alto, non siamo noi. Non c'è scritto nel trattato di Maastricht, ma nel fiscal compact. Comunque il punto è quello, ci servirebbero dei tassi di interesse più alti, diciamo 3%, perché no? Così mette a posto anche molto nel sistema bancario europeo. Sì, non ho capito l'ultimo accenno polemico, nel senso ci che ci servono nel dei senso tassi che di interesse allora più se alti, tu vuoi, così allora, il surplus Tobias, però scende, facciamo una cosa, non piace mai a nessuno essere sul banco degli imputati, però capita nella vita. Allora, se tu mi vuoi parlare del fiscal compact, che è una follia, e della cosa che riguarda l'avanzo primario, è previsto dal fiscal compact, non è colpa mia se la Germania continua ad avere un avanzo primario, un avanzo molto alto nella bilancia commerciale, i paesi dicono perfetto, non puoi avere una famiglia in cui un fratello deve risparmiare giustamente perché ha speso troppo, e mi riferisco al deficit italiano e anche francese e quant'altro, e l'altro fratello però che guadagna bene e mantiene i soldi in cassa e non li spende, perché una famiglia così va a remengo, ok? Perché se uno deve risparmiare e l'altro non spende, voglio capire chi paga la bolletta della luce. Detto ciò, qui stiamo parlando di banche. Allora, quella sensazione che ho avuto io è che da un lato adesso voi dite, Schäuble, tu dici, beh, è compito di Mario Draghi Weidmann invece che io mi aspetto che comunque il governatore della banca centrale dica: guardate, stiamo monitorando con attenzione, stiamo lavorando con la BCE. No, si occupa in maniera estemporanea del ministro delle finanze unico europeo. E faccio notare che è circolata con molta forza la settimana scorsa l'ipotesi di Schäuble di fare, adesso la spiego male, un bail-in anche per i titoli di Stato, quanto mai intempestiva visto la situazione sui mercati. Non ritieni che ci debba essere una presa di posizione complessiva delle autorità politiche? Draghi in questo momento non può fare niente, mettiamocelo bene in testa, non è che ha già fatto il possibile, o no? Chiedo, Il punto è quello, così: la Bundesbank non è Banca d'Italia, in quanto la Bundesbank non ha mai avuto supervisione sul sistema bancario, così Weidmann in quel senso è fuori. C'è un'autorità nazionale di supervisione finanziaria, ma questo è un altro paio di maniche. Dopodiché tutta questa supervisione è andata alla Banca Centrale Europea, la quale, se avesse dei dubbi sui conti, sui accantonamenti, così dovrebbe intervenire. Dopodiché, dico, a tutto il sistema bancario servirebbero tassi di interesse più alti, che potrebbero poi anche avere dei effetti positivi per l'economia tedesca, anche per il surplus ridotto, ma certamente non piacerebbero al ministro Padoan. Sì. Senti, un'ultima cosa, la battuta che mi facevano ieri gli ascoltatori: beh, sta a vedere che se adesso avranno problemi due grandi banche tedesche, si andrà a rivedere il bail-in. Sottolinea il fatto che la sensazione forte in Europa è che quando il problema è tedesco diventa problema europeo, quando il problema è francese, italiano, penso ai migranti, ma non solo, il problema è di quel singolo paese. Allora, la battuta di risposta che ho fatto io è: il problema in questo momento è che la Germania è il paese più forte, ma non vuole assumersi gli oneri oltre che gli onori della leadership, cioè fai il più forte perché lo sei. Però quando uno è più forte in una squadra deve anche assumersi la leadership, deve: perfetto, adesso io guiderò tutta l'Europa fuori da questa secca. Invece la sensazione che si ha, non è una sensazione, è che la Germania è il più forte, ma pensa in primo luogo o soprattutto ai suoi interessi. È una critica che condividi, cioè che c'è una forza senza leadership, senza la voglia di assumersi la leadership? Il capitano di una squadra di calcio magari è il più forte, ma poi si assume anche la leadership di questa squadra. La Germania non vuole prendersi tutto il rischio dell'Europa fin quando quelli che devono cedere i rischi poi vengono deresponsabilizzati, no? Questa era l'idea, così. Allora chiunque deve gestire il proprio sistema bancario con i rischi e così le perdite, con i problemi, con i guai e poi anche con gli utili. Dopodiché, dopo un po' di anni, dopo aver messo a posto una supervisione europea, dopo aver sganciato le banche dagli aiuti di Stato e dai debiti dello Stato, poi si può anche unire questi rischi, ma al momento mi sembra ancora troppo presto. Quindi tu sei tranquillo, cioè, il fatto che i CDS stiano schizzando, che il mercato sia molto scettico, che gli operatori ci dicono che c'è questa voce forte che vi potrebbe essere un attacco, non ti preoccupa, no, lo chiedo. Il mio giornale importante, Frankfurter Allgemeine Zeitung, importante sulla piazza di Francoforte, è sempre stato velenoso contro l'ultimo vertice di Deutsche Bank. È vero, l'abbiamo letto. Dopodiché adesso sta a guardare se queste ultime svalutazioni bastano e allora in queste situazioni poi le aziende recuperano, o se ci sono altri problemi, e questo ce lo deve dire così la Banca Centrale Europea. Grazie, e soprattutto lascio che te lo dica, condoglianze alla Germania in questo senso, per quello che è successo, l'incidente che abbiamo raccontato, il tragico incidente tra due treni che abbiamo raccontato, condoglianze chiaramente alla Germania per i morti, speriamo che il numero si sia comunque fermato. Grazie a Tobias Piller, corrispondente del Frankfurter Allgemeine Zeitung da Roma. Traffico. Focus Economia. Allora, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666 su WhatsApp, SMS. Ragazzi, se Tobias Piller non vuole dire, non è che lo posso obbligare, lui ritiene che casomai dovrebbe intervenire la BCE, che Schäuble e Weidmann non hanno in questo momento necessità né obbligo di intervenire con dichiarazioni. Molti di voi fanno notare che quando si parlava di Grecia, di banche italiane, di altre cose, sono sempre intervenuti. Lo so. Dai, fatemi stare buono. Allora, vorrei ringraziare intanto l'ex, perché fino allo scorso febbraio lo era, capo economista del Ministero dell'Economia italiano, attualmente economista alla London School of Economics, Lorenzo Codogno. Buonasera, in collegamento con noi da Londra. Buonasera a tutti. E poi una chiosa finale la chiederò anche a Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Dottor Codogno, sintetizzo in una battuta. Gli operatori che abbiamo sentito dicono, beh, insomma, qui c'è la preoccupazione che vi possa essere, diciamo in maniera brutale, un'altra Lehman Brothers e le nubi si addensano su Deutsche Bank. Altri sostengono, no, sono i grandi fondi che stanno uscendo, non c'è nessun buon motivo per essere lunghi, come si dice in gergo, per acquistare sul mercato. La soglia tecnica che fosse a 16.200, 17.000, è stata oggi anche quella psicologica dei 16.000 punti a Milano superata, 15.900 la chiusura. Lei che opinione si è fatto di quello che sta capitando? Beh, ci sono tante circostanze che sembrano tutte complottare per una debolezza complessiva del sistema mondiale di mercati finanziari. Tutto è partito con la debolezza del petrolio e la debolezza della Cina, i rischi, le preoccupazioni per quanto riguarda il rallentamento cinese. Ora le preoccupazioni stanno focalizzandosi sul rallentamento statunitense, soprattutto dopo il dato debole per il di crescita che si è avuto recentemente, e più di recente ancora pressioni sul sistema finanziario europeo. Abbiamo visto non solo l'Italia ma anche altri paesi, oggi appunto anche la Germania, sotto pressione per preoccupazioni sistemiche sulle banche. Lei ha sentito molto importante, prego. No, un altro fenomeno importante che secondo me non va sottovalutato è che il rallentamento o il percepito rallentamento dell'economia americana e la percepita così svolta da parte della Fed, perché ormai molti non si aspettano più rialzi durante il corso di quest'anno, ebbene a questo ha penalizzato il dollaro. Il dollaro è diventato una valuta più debole e questo secondo me cambia gli equilibri, perché il dollaro era per così dire l'ammortizzatore di ultima istanza dell'economia mondiale. Si indeboliva, si rafforzava il dollaro e questo consentiva alle economie degli altri paesi di riprendere un po' di fiato. Questo non è più la situazione in caso. Infine, se posso completare un po' il quadro, penso che ormai la preoccupazione maggiore di tutti sia l'incapacità da parte delle banche centrali di tutto il mondo di poter reagire in maniera adeguata. Le armi sono sempre più spuntate. L'abbiamo visto recentemente con la decisione della banca del Giappone di portare i tassi in negativo, il mercato ha diciamo reagito malamente. Ah beh, oggi Nikkei ha perso il 5,40%. Il 5,40%. Una domanda, Codogno, lei è d'accordo con Tobias Spider che dice, ma insomma esiste la Banca Centrale Europea, se ha dei rilievi da muovere su Deutsche Bank o Commerzbank non c'entra la Bundesbank? O è d'accordo con chi in questi giorni ci ha detto attenzione, quello che manca in questo momento, penso a Angelo Drusiani ieri, è un segnale delle autorità, ma non la Banca Centrale Europea, che ormai non si capisce cosa debba ancora fare, ma proprio delle autorità, dell'idea che insomma non si va a scommettere contro una Lehman Brothers in Europa e comunque contro il sistema bancario in Europa? Io sarei d'accordo che servirebbe un segnale da parte dei policy makers, ma è un po' difficile pensare a cosa potrebbe essere questo segnale, perché da un lato, ripeto, le banche centrali hanno un po' le armi spuntate, però nel breve periodo sono le uniche che possono effettivamente reagire e introdurre qualcosa di nuovo nel sistema, cioè decidere delle mosse ulteriori per supportare la situazione. Per il resto la politica fiscale può fare ben poco in questo momento, soprattutto nel breve periodo. E dal punto di vista della sorveglianza è chiaro che queste banche devono essere sorvegliate in maniera adeguata, ma non penso che questo cambi in maniera radicale la situazione. Teniamo anche presente che dal lato del policy maker, chi deve fare politica economica, sia dal lato delle banche centrali sia dal lato dei ministeri delle finanze, eccetera, dare segnali preoccupanti potrebbe essere addirittura controproducente, quindi è un'arma che va giocata con molta attenzione perché potrebbe essere anche negativa. Alessandro Platerotti, a luce di quanto diceva prima Tobias Pieder, adesso ha detto Lorenzo Codogno, vorrei capire, sei d'accordo, cioè la Germania non deve dire nulla, né Weidmann né Schäuble, a questo punto deve parlare solo Draghi, un segnale politico, diceva Codogno, certo che sarebbe importante, però bisogna capire anche qual è il tono, che cosa dovrebbe dire. Ma guarda, io rispondo per punti. Sull'aspetto della Deutsche Bank mi sembra che il governo tedesco sia già intervenuto facendo dichiarazione che la banca è solida, quindi sostanzialmente è in linea con quanto avviene in Italia. Quando si dice mette in dubbio la solidità delle nostre banche, escono fuori i ministri o il governo a dire che non è così. Fatto sta comunque che come sono state mandate le lettere alle banche italiane per sapere le politiche di accantonamento, le politiche sui negli NPL e di cui abbiamo discusso per settimane, beh, credo che questo sia avvenuto o debba avvenire, se non è già avvenuto, anche con le banche tedesche, ma è un principio di normale, a mio avviso, di equità, non di opportunità politica, è un fatto tecnico, dovranno necessariamente intervenire, perché quello che è emerso oggi dal caso Deutsche Bank è un po' grottesco. Prima si è parlato già da stamattina di una crisi di liquidità, cioè onorare le scadenze sui bond e così via, dopodiché è stata la stessa banca a dire no, non è un problema di liquidità, è un problema di capitale, e allora è come il nostro, allora conferma la nostra tesi, che il meccanismo messo in piedi in Europa sulla vigilanza bancaria, sulla patrimonializzazione degli istituti, ammazza tutti e non solo gli italiani, altrimenti non avremmo il caso Deutsche Bank. Se ha un problema di capitale, a questo lo dobbiamo. Per cui questo è un punto. Però vorrei precisare una cosa che ho sentito poco fa, cioè dice le banche centrali hanno l'incapacità delle banche centrali. Ecco, il nodo è proprio lì, non è l'incapacità, a mio avviso, per carità, non è l'incapacità delle banche centrali, è l'incapacità della politica di dare sostegno a quello che hanno fatto le banche centrali. Perché io ricordo benissimo tutti i discorsi fatti, ad esempio, da Draghi, se parliamo dell'Europa, fin dal primo minuto del QE, degli stimoli straordinari, diceva io faccio la mia parte, ma voi fate la vostra, completate il quadro delle riforme, l'unificazione delle garanzie sui depositi bancari, gli euro bond, cioè tutte quelle misure che sarebbero dovute servire, che servono tuttora, a dare sostegno alla liquidità. La liquidità di per sé è astratta, nel senso viene e va, restano che cosa? Gli investimenti, quello che serve per far crescere l'economia. Vedi, voi parlavate prima a Parigi c'è stato oggi un vertice fra i banchieri centrali di Francia e Germania, da lì è uscito fuori una cosa che veramente mi ha lasciato un po' a colpo, perché cosa dicevano? Il tedesco soprattutto, dice bisognerà fare una discussione in BCE, perché l'obiettivo dell'1% dell'inflazione del 2016 non sarà raggiunto. E allora, come fate voi, dico Bundesbank, ad opporvi da una parte ad aumentare la liquidità, perché questo dovrebbe spingere l'inflazione, e dall'altra mi dici che però il target non sarà raggiunto, delle due l'una, ci vuole chiarezza. Ultimo punto. Allora, la questione della liquidità funziona se è accompagnata, come dicevo, da investimenti pubblici, da politiche di bilancio. Allora, vorrei girare questa tua osservazione a Codogno, ho un minuto scarso. Negli Stati Uniti lo stampaggio di dollari, per essere ancora più brutali, ha funzionato perché nel frattempo partivano anche gli investimenti pubblici, cioè se ne fregavano del deficit complessivo. La critica che riprende anche Alessandro Platerotti è, sì, Draghi ha fatto la sua parte, sta stampando euro a man bassa, però se poi non parte un piano di investimenti, se questi soldi non vengono utilizzati e c'è un paese soprattutto che si oppone a qualunque forma di investimenti per la crescita, resta una liquidità che poi va dove meglio crede. Codogno, in un minuto. Dura in un minuto, perché comunque ci provo. Diciamo che per qualificare meglio quello che lei ha detto, direi che negli Stati Uniti la risposta della Fed è stata molto più rapida e immediata della Banca Centrale Europea. Il QE negli Stati Uniti è partito molto molto prima, e quindi è chiaro che loro sono in una situazione ciclica diversa dalla nostra. Sui conti pubblici certo non hanno fatto politica espansiva, o quantomeno non l'hanno fatta nel termine che ha detto lei. Direi che il problema fondamentale qui è che certamente la politica fiscale deve dare un contributo e non essere troppo rigida, ma quello che veramente serve fare le riforme strutturali, che nonostante in alcuni paesi siano stati fatti passi avanti, certo nel complesso dell'Europa questo non vale. E quindi c'è l'altra gamba, diciamo, quella della politica, che non segue la gamba di Mario Draghi, per mettere in questo modo. Grazie a Lorenzo Codogno, in collegamento con noi da Londra, dove appunto economista della London School of Economics. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Platerotti. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni comunque l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.